Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Tra le possibili applicazioni della blockchain, ormai ne sentiamo parlare quasi quotidianamente, ce ne sono due di particolare interesse per l'impatto che possono avere su noi comuni cittadini, con particolare riferimento alla tutela della privacy e alla certezza, che oggi francamente è vicina allo zero, del corretto processamento dei nostri dati personali. La questione in poche parole è che se in punta di diritto il problema della gestione dei nostri dati personali ogni volta che accediamo a un nuovo servizio informatico, a un sito di informazioni, a un portale di e-commerce, viene risolto con un click col quale accettiamo o rifiutiamo il trattamento dei dati, pochissimi vanno oltre ed entrano nei dettagli, nell'universo reale l'idea che ognuno di noi possa avere consapevolezza o anche solo tenere traccia di quali autorizzazioni ha concesso nel tempo e di cosa effettivamente si faccia con questi dati, più che un'idea ottimistica appare un'idea ridicola. E se, diciamo così, la faciloneria con cui noi utenti accettiamo acriticamente le condizioni che ci vengono offerte è parte del problema, è pur vero che questa faciloneria non può diventare una condanna a vita. Ed è qui che può appunto intervenire questa tecnologia, la blockchain, ricordiamo, la tecnologia alla base di Bitcoin, attraverso l'introduzione di due concetti, la self-sovereign identity e il common knowledge computing. Ci facciamo spiegare di che cosa si tratta dalla professoressa Valeria Portale, che è co-direttore dell'osservatorio Blockchain and Distributed Ledger del Politecnico di Milano, che è stata già molte volte nostra ospite. Buonasera Portale. Buonasera a tutti. Allora, self-sovereign identity, quindi tradotto brutalmente è identità autosovrana. In che cosa consiste? Allora, consiste in un nuovo modello abilitato proprio da queste tecnologie blockchain che consente all'utente di non delegare la custodia e il controllo di informazioni personali ad un attore terzo, ma di poter gestire lui in completa autonomia la propria identità e ovviamente utilizzare il concetto di certificati, okay, per dimostrare all'esterno che lui ha magari determinate caratteristiche o determinati attributi. Quindi è un cambio totale di paradigma, cioè manca quell'entità centralizzata che... Ecco, perché questa è la parola chiave forse, centralizzare il controllo di queste autorizzazioni che altrimenti sono sparpagliate, non sappiamo più neanche bene dove. Esatto, cioè in realtà è l'utente che ritorna a essere proprietario di custodire la propria identità e non è più qualcuno che magari poi quei dati li rivende a qualcun altro e quindi il cittadino e l'utente perde il controllo dei propri dati. Ecco, diciamo che oggi io in teoria potrei rientrare in tutti i siti nei quali sono entrato e a cui ho concesso qualche tipo di utilizzo dei miei dati e uno per uno, mandando un'email o in qualche modo, potrei cercare di revocare diciamo certe autorizzazioni che ho dato. Qui invece parliamo di avere un solo luogo dove vado e vedo tutto quello che ho concesso di fare, che ho concesso di farlo, e posso modificare queste impostazioni. Sì, l'interfaccia dell'utente dovrà ancora essere molto strutturata e abilitata, però potranno essere creati proprio servizi per una gestione più semplificata poi di questa concessione di questi certificati. Il punto fondamentale è che io non darò più i miei dati a qualcuno che poi lo rivenderà a qualcun altro, certo, ma sarò io che poi mi farò da abilitatore nel dimostrare a qualcun altro chi sono e quali caratteristiche ho. Quindi questo è proprio un cambio di paradigma. Ecco, la prima applicazione che viene in mente riguarda la tutela della privacy, ma ce ne sono comunque anche altre. Certo, le applicazioni sono infinite, cioè se pensiamo per esempio anche solo nell'ambito del recruiting delle persone, per esempio banalmente se io sono laureata o dei certificati, via dicendo, oggi per chi vuole verificare questi dati è molto complicato. Se io per esempio avessi dei certificati che mi sono stati rilasciati dall'università, da tutte le scuole, da tutte, diciamo tutto il percorso che io ho fatto, mi diventerà più semplice semplice dimostrare, certo, che ho determinate competenze, e questo anche perché sono garantita da un sistema in cui poi non è che devo andare a far sì che dove sto cercando lavoro deve andare a verificare al Politecnico se io ho davvero la laurea, ma ho un sistema in cui io ho questi certificati firmati al Politecnico e poi per esempio posso dimostrare che sono effettivamente validi e non falsificati. Veniamo all'altra parola chiave, che è Common Knowledge Computing. Di che cosa stiamo parlando in questo caso? In questo caso è proprio il concetto di blockchain, di smart contract, in cui è un algoritmo che viene certificato, cioè non sono solo i dati che passano su questi sistemi, ma è anche le logiche sottostanti con cui posso far passare i dati, che sono certificate, visibili a tutti, e tutti possono verificare che diciamo il processamento di quei dati sia avvenuto nel modo più corretto. Gli ambiti applicativi. Quindi diciamo, tornando al tema della privacy, da un lato io controllo quali autorizzazioni ho concesso o non ho concesso, e questa è la self-sovereign identity, dall'altro io voglio avere certezza che poi con quei dati si faccia ciò che si è promesso e non altre cose. Esatto, esattamente, e in più che si facciano quelle cose non solo per me ma anche per tutti gli altri utenti che magari nello stesso modo di talune community, in modo tale che per esempio se io visualizzo certi dati anche di altri siano stati trattati nel modo corretto. Ecco, qua le potenzialità ovviamente sono molto molto interessanti, perché qua non vado a certificare solo il dato ma certifico il processo con cui quel dato viene gestito. C'è il tema anche qui della tutela, diciamo, della privacy, ma poi ci sono molte altre possibili applicazioni di un concetto di questo genere. Esatto, pensiamo anche solo nel mondo della pubblica amministrazione per gestire le gare d'appalto, quando si aprono le offerte pubbliche, okay, per ottenere un appalto, molto spesso sappiamo che in modo magari arbitrario chi sta valutando quella gara d'appalto valuta sulla base dei propri criteri. Se io avessi sottostante un algoritmo che è visibile a tutti, che mi fa vedere che tutte le offerte vengono valutate con i medesimi criteri, con le medesime modalità, ovviamente io avrei la garanzia massima che è validato non solo il dato che io ho passato ma anche tutto il processo di restituzione. Quindi questo aprirebbe opportunità rilevanti in vari ambiti e in vari settori. Va bene, allora grazie professoressa Portale. Buonasera a tutti. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, l'appuntamento con Smart City torna come sempre domani, buona serata a tutti voi.